A Buccalone, facce ride, a Buccalone, dai. Ok, questa canzone parla dell'altra faccia delle dive, quella faccia che noi comuni mortali possiamo vedere solo al cinema, alla TV o sui giornali. Ma un amico che l'ha vista molto da vicino mi ha detto che anche quella faccia parla. E già, in certe occasioni parla anche lei. E quando parla, presa poco, dice così. Anche i bei culetti fanno, anche i bei culetti fanno, guarda se ne croppo, guarda Claudia Schiffer, anche i bei culetti fanno, anche i bei culetti fanno, anche i bei culetti fanno, guarda se ne croppo, guarda Claudia Schiffer, anche i bei culetti fanno. Annichilito tutto il bagno e ci vuole l'acido poliedrico. Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti, però anche alle top models gli canta il posteriore. Può essere carino, fatto mandolino, ma quando prende freddo sai che fa? Anche i bei culetti fanno, anche i bei culetti fanno, guarda le si brilli, guarda la parietti, anche i bei culetti fanno. Anche i bei culetti fanno, anche i bei culetti fanno, guarda Nancy Brilli, guarda la Marietti, anche i bei culetti fanno. Camagnato, i biuste, cave Brunelle. Lo sai che Tinto Brass lo paragona ad una faccia, ma quando la ritopero assomiglia a una scoreggia. Sarà nobile chiappa, da dove se ne scappa, ma su poste di mentolo non ce n'è. Anche i bei culetti fanno, anche i bei culetti fanno, guarda un po' Madonna, guarda la Bellucci, anche i bei culetti fanno, anche i bei culetti fanno, anche i bei culetti fanno, guarda un po' Madonna, guarda la Bellucci, anche i bei culetti fanno. Se deve andare in del posto, andi! È tanto liberatorio! Per la cellulite si lotta con fervore, ma nulla è stato fatto per migliorar l'odore. Son belli da guardare, ma non puoi sopportare le arie che si danno questi qua. Anche i bei culetti fanno, anche i bei culetti fanno, guardali tranquillo, guardali un po' meglio, anche i bei culetti fanno, anche i bei culetti fanno, anche i bei culetti fanno, guardali tranquillo, guardali un po' meglio, anche i bei culetti fanno, anche i bei culetti fanno, anche i bei culetti fanno. Respirerò tutta l'aria che c'è, vedo a sorpresa.